Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo operativi dal Groove Master Studio per dare il via alla puntata numero 254 del nostro Soundcheck, prova del suono qui su Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, buonasera al nostro Francesco Tromba, questa sera particolarmente interessato alle vicende e alle cose che racconterà il nostro ospite, perché abbiamo dedicato la puntata di questa sera alla televisione musicale, ma soprattutto cercheremo di capire i meccanismi che legano la televisione di oggi al pubblico, ai numeri, all'industria, alla promozione discografica e tutto quello che fa spettacolo. E ne parleremo con un autore importante, tanti anni legato a nomi importanti della televisione nazionale, dello spettacolo, ha firmato, che ne so, Sanremo, ma poi ci leggerai tu la sua scheda personale. Vado a introdurvi Madame Messia, Ladies and Gentlemen, Sergio Rubino. Benvenuto Sergio. Buonasera a tutti, ciao Gegè, ciao Francesco, è un piacere ritrovarti. Allora, è un piacere mio ritrovarti, ci conosciamo da tanti anni. Più di 20 Abbiamo anni. Anche fatto televisione insieme, ma oggi sei diventato quasi irraggiungibile perché sei sempre impegnato. Più volte ho tentato un contatto di chiamarti, ma alla fine eri sempre chiuso in uno studio televisivo a fare quello che sai fare. E in effetti sì, sono 22 anni che non, quasi 23 non trovi pace, che non trovo pace, e questo è, diciamo, mi ha dato molto, perché poi mi ha dato la possibilità di fare quello che faccio, questa inquietudine di fondo. Inquietudine che arriva proprio dalla televisione. La televisione è inquieta, è inquietante. Per alcuni aspetti può essere inquietante, per altri no, dipende insomma da come la vivi, insomma, insomma oggi poi l'offerta è talmente variegata, talmente, anzi direi che ci sono più reti che spettatori per alcuni aspetti. Insomma, no? Forse è così, questo soprattutto fra le nuove generazioni, perché hanno trovato in internet una valvola di sfogo importantissima, se lo fanno loro il palinsesto, e a volte non è male. Sì, devo dire che a volte non è male, anche se poi... non so se dobbiamo affrontarlo adesso o dopo. Realtà... abbiamo 2 ore a nostra disposizione per parlare bene o male della televisione, staremo a vedere, perché sicuramente è un mezzo importante per l'informazione e per l'intrattenimento, però forse, non so se nel nostro paese ma in giro per il mondo, a volte viene utilizzato male questo mezzo. Perché è un potenziale enorme e quindi probabilmente non sempre chi fa televisione si rende conto dell'enorme responsabilità poiché ha nell'entrare, anche non richiesti nelle case, nel caso nostro degli italiani, ma insomma le case di tutto il mondo. E quindi se non stai attento, se non hai sempre ben precisa la strada, se non ti guardi allo specchio, diciamo, tutte le mattine, puoi rischiare di derazzare. Insomma. Bene, per ora siamo stati concettuali, mio caro Francesco Tromba, ma andremo proprio a mettere il dito nella piaga con Sergio Rubino, del quale vorrei tu ci facessi una presentazione ad hoc. Sì, allora, Sergio Maria Rubino, nato a Castellana Grotte, provincia di Bari, è laureato in giurisprudenza all'Università di Bologna. E questa è già una cosa bella, eh? Sì, è stato autore di Serena Dandini, Fabio Fazio, Pippo Baudo, Fiorello, Gianni Morandi, Adriano Celentano. Dal 2003 fino ad oggi è praticamente firmato tutti i programmi di Paolo Bonolis. Quindi hai fatto anche i Sanremo con Paolo? Ho fatto i 2 Sanremo. Sì, ha fatto in realtà 3 Sanremo, perché in uno è stato anche autore di Pippo Baudo. Poi ha fatto anche Domenica In, Ciao Darwin, Affari Tuoi, veramente tantissimi programmi. Il senso della vita. Il senso della tengo vita. Molto. Sì, anche primo quello. Programma a mettere il jazz nelle televisioni, come dire, sì, col mio amico Stefano Di Battista, col grande Stefano Di Battista, certamente sempre dopo di me, però, perché nell'87 facevamo Doc. No, scusa, no, Ubi Maio. Guarda, ho fatto solo quel programma, quindi me lo tengo caro. Però È stato anche capo progetto del Festival del Primo Maggio di Piazza San Giovanni dal 2003 fino al 2010. È anche stato autore di MTV Italia dal 97 al 99. L'ultima sua avventura riguarda il docufilm sulla Terra dei Fuochi intitolato Malaterra, insieme a Gigi D'Alessio, che è già stato premiato al Taormina Film Festival. Quindi vive di televisione il nostro Sergio Rubino, e vive chiuso in uno studio televisivo, ma oggi è nel nostro piccolo Groovemaster Studio anche per ascoltare musica, che è quella che noi vi presentiamo tutti i weekend. Ed eccola qui, arriva Liz Wright, cantante formidabile, una bellissima produzione questa recente intitolata Freedom and Surrender. Il brano per voi è Lean In. Liz Wright al Soundcheck. Freedom and Surrender, il nuovo album di Liz Wright, protagonista del nostro Soundcheck. Questa sera nostro ospite Sergio Rubino per parlare di televisione. Allora, vediamo un po' che cosa è più importante, Sergio: fare della bella televisione per educare il pubblico, o è più importante fare un programma di successo? Questa è una domanda capziosa, perché il mio interlocutore è uomo intelligente. Io ti rispondo: io personalmente faccio la televisione che mi piace fare, nel senso che non ho mai, ma veramente questo lo dico con verità, insomma, poi chi mi conosce lo sa, non ho mai ammiccato al pubblico tanto per il gusto di ammiccare, perché prima o poi perdi l'anima, in qualche maniera, insomma, il tuo lavoro si depaupera, insomma, di quella che deve essere la forza. Quindi io intanto mi piace variare, e questo è fondamentale. Quindi io scorazzo dal quiz, come Avanti un altro, che è un programma che va tutti i giorni in onda sul canale 5 da 5 anni, va fortissimo, è un quiz folle fatto alla nostra maniera, mutatis mutandis, con le dovute proporzioni. Ci siamo ispirati a, come dire, allo zoo umano di Renzo, quando, insomma, sì, nelle cose che sì faceva, insomma, è un programma pieno di follia. Però poi firmo la regia di un docufilm sulla Terra dei Fuochi, che è una cosa serissima, insomma, in cui una parte di me trova la necessità di esprimersi. Quindi dipende, insomma, devi sempre fare le cose che senti e avere il coraggio di fermarti quando è necessario fermarti. Quindi il programma di successo io credo che non lo puoi pensare a tavolino. C'è una chimica di fondo, è un po' come, e tu lo sai bene quello che vuol dire, il musicista bravo, l'autore di canzoni, che si mette a tavolino e dice: adesso faccio un successo. No, sempre, ti non chiedo questo così, perché molto spesso succede di vedere in televisione programmi che vengono brutti, anche un po' volgari, che sì, però vengono premiati da ascolti spaventosi, e poi invece vengono chiusi dei programmi carini, educativi, propedeutici in qualche modo, sia per la musica o che per l'arte e la cultura, che invece, non facendo ascolti, vengono prima messi a tarda notte e poi eliminati completamente. Ma questo, diciamo, è un discorsone, no? Che andrebbe poi filtrato. Ma noi lo vogliamo fare, abbiamo facciamo, due ore. Facciamo. Guarda, intanto bisogna distinguere una cosa: l'editore privato, come nel caso, io lavoro in questo momento per un editore privato che è Mediaset, quindi, essendo un privato, decide lui la linea, insomma, no? Da questo punto di vista, mentre la RAI dovrebbe avere più attenzione al servizio pubblico, cosa che non fa più. Però per avere successo si è allineata un po' alle politiche, no, editoriali di... Sì, ma per avere successo, diciamo, svilendo una funzione di fondo, che questo è, perché comunque la RAI dovrebbe fare il servizio pubblico indipendentemente dal successo, quantomeno destinare una fetta dei palinsesti a questo obiettivo, e quindi questo manterrebbe in vita, insomma, un po' come, voglio dire, la tutela delle comunità, quelle, no? Se esiste, come dire, la comunità greco-albanese e esiste il valdese, bisognerebbe quindi in televisione, e assolutamente devono esistere, devono essere tutelate, riconosciute, in televisione dovrebbero esistere una serie di comunità minori che però, come dire, secondo l'articolo 3 della Costituzione tutti hanno il diritto, insomma, di esistere, di essere uguali. Insomma, tu a quale comunità appartieni, Tromba? Infatti, Tromba. Calabresi. Ai calabresi. Quella è una comunità importante. Importantissima. Liz Red con Freedom qui al Soundcheck. When she call my name, oh, I wonder if she'll call again and I'll answer. Oh yeah, call again and I'll answer. I don't think we've met before. Heard some old folks talking about you like it was the Lord. Call again and I'll answer. Oh yeah. Again and I'll answer. I'll be right there. Hey, I will. Soundcheck, il suono della musica. Okay, with the fresh strawberries, you know the ones I put the agave in. There will be no more quiche and no more sausages. And don't even think about my pepper jack grits or my grandma's buttermilk biscuit. La voce della formidabile Jill Scott, anche lei è tornata discograficamente, e questo è il singolo che ha anticipato questa nuova pubblicazione intitolata come Woman, semplicemente, no? Sì. Il brano si intitola Closure, questo è il soundcheck di Radio 24, nostro ospite, l'autore TV Sergio Rubino, che è arrivato qui nel Groovemaster Studio per raccontarci un po' le dinamiche che regolano la televisione, questo rapporto incredibile che c'è fra la TV, il pubblico che segue la televisione, i numeri, il marketing, la promozione, i dirigenti. Una volta a dirigere le reti televisive c'erano personaggi che vivevano in qualche modo l'arte e la cultura e che facevano anche la televisione. Oggi a dirigere le reti invece ci sono degli imprenditori che stanno più che altro attenti ai numeri. È così o no? Senza dubbio. Quello che ho detto prima lo ripeto anche adesso, insomma, a cavallo del pezzo. Gli editori privati hanno diritto di fare insomma, la televisione come più gli aggrada, insomma, anche perché investono dei soldi. Quello, insomma, è, insomma, vabbè, però anche loro hanno le loro responsabilità. Enormi, no? Responsabilità. Che puoi educare o diseducare il pubblico. Sì, ma quello dipende al bello e al brutto. Hai ragione, però quello dipende anche dalla sensibilità poi di chi la televisione la fa, cioè nello specifico gli autori e i conduttori, quelli che ci mettono la faccia e quelli che dietro pensano e organizzano il tutto. Perché io credo che il pubblico recepisce tutto ciò che è fatto bene. Io di questo sono convinto e ne ho, insomma, come dire, ne ho toccato con mano, verificando con esempi proprio pratici legati al mio lavoro, che quando fai una cosa in cui tu credi e quando fai una cosa che ti rappresenta tantissimo e lo fai col cuore, adesso non sto dicendo una banalità, ma è così, cioè, e lo fai credendoci, se sei credibile tu, poi tra l'altro devi avere quella magia della credibilità. Quando Gegé faceva la televisione, io lo vedevo da studente universitario nell'87 a Via Zacconi a Bologna, mi seguivo Doc, lui era credibile, no? Io lavoro con una persona che si chiama Paolo Bonolis, che è credibilissimo, quindi riesce ad avere i cambi di registro, che sono una cosa fondamentale della televisione. Quindi quando tu sei credibile puoi far arrivare qualsiasi cosa tu voglia. Io volevo farti una domanda. Allora, intanto guardando la televisione mi sembra che ci sia una voglia di non rischiare, cioè di andare sul sicuro. Vero. Questa esportazione dei programmi già ben concentrati, cioè ben che si sa che avranno successo, cioè come appunto i vari X Factor eccetera eccetera, perché non c'è più voglia di sperimentare in televisione e come anche i nuovi mezzi di comunicazione, soprattutto i social network, possono implementare, spingere la televisione a sperimentare? Guarda, ti risponderò con una risposta, diciamo, antropologica, molto velocemente. Negli ultimi 20 anni questo paese ha sdoganato le seconde linee a tutti i livelli. Quindi la televisione, che è espressione del paese, è spesso in mano alle seconde linee. Quindi è questo, quindi quelli che non rischiano, quelli che rifanno le cose, ma questo, voglio dire, dalla televisione ai massimi sistemi, compreso anche, voglio dire, chi ci governa, gli amministratori, i politici, i dirigenti, e di conseguenza, quindi, si è abbassato la qualità del prodotto Italia, diciamo, in assoluto. Che peccato, però. Sì, diciamo che, cioè, rispetto a prima, ad esempio, quando c'era Renzo Arbore, comunque cercava di proporre delle cose ma nuove, anche prima di Renzo, quando c'era Antonello Falqui, no? Assolutamente. Forse sono i due modelli di televisione. Ma io voglio di dire qualità. Una cosa: negli anni 60 la televisione aveva l'obiettivo di alfabetizzare, perché il paese sostanzialmente doveva essere ricostruito. Quindi poi una quindi volta... che era più facile fare televisione in qualche modo? Non era più facile, era una sfida nuova. Intanto puoi immaginare che tipo di... Non c'erano sfide televisive, perché c'era un canale, poi due, poi tre. Sì, e poi dove quando andava male ti vedevano 27 milioni di italiani. Però il meglio della cultura di questo paese si era prodigato a fare questo. Terry Walker, Open Your Mind al soundcheck, ma nella versione remix di Spectra Soul. When you think you're in the know, but you don't know nothing. You think you're keeping your feet, but you have never made something from nothing. You're just perceiving the time, but never take a minute to really listen. You only focus on I, and all are unaware of what you're missing. Soundcheck. Il suono della musica. If I could, I'd give you the world. Wrap it all around you. Won't be satisfied with just a piece of his heart. My nuova pubblicazione live per la figlia di Mr. Soul, ovvero Donya Hathaway. Lei è Lala Hathaway, una delle nostre preferite. Si intitola Angel questo brano, che fu portato al successo negli anni 80 dalla bravissima Anita Baker, quindi ricordata da Lala Hathaway dal vivo a Los Angeles in questa recentissima pubblicazione che noi vi anticipiamo qui al Soundcheck. Nostro ospite Sergio Rubino, autore TV di tanti programmi importanti, ha collaborato con gli artisti più importanti della televisione nazionale da 20 anni a questa parte, nostro ospite proprio per capire insieme le dinamiche della televisione. I ragazzi considerano la TV magari soltanto un elettrodomestico, senza apprezzarne invece l'importanza divulgativa che aveva un tempo nei confronti del pubblico televisivo italiano, soprattutto negli anni 60-70. Oggi i ragazzi invece preferiscono creare il loro palinsesto guardando YouTube o seguendo comunque internet. Quanto è difficile quindi per un autore televisivo avvicinare il pubblico di teenager oggi alla televisione? Ma questo è... E come si fa? Quale potrebbe essere il segreto, Sergio? Questa è davvero la sfida più importante, sostanzialmente, che chi fa il mio mestiere poi deve affrontare ogni giorno. E intanto non si fa... Bisogna distinguere la televisione fatta su YouTube, i video di YouTube, quindi tutti gli youtuber e, diciamo, il mondo narrativo di quel segmento dell'audiovisivo, non sono una cosa a sé stante. E io ho sempre visto che, tirati fuori da lì, questo tipo di intuizioni straordinarie si perdono. Quindi io credo che bisogna... I meccanismi televisivi di video di internet in TV non funzionano. Sono una cosa tremenda, perché... Ecco, però poi da internet sono arrivati anche dei personaggi, cioè ce ne stanno un paio, tipo Frank Matano. Guarda, è nominato l'unico, però. L'unico. Cioè, diciamo le cose come stanno. Frank Matano aveva ed ha un talento enorme, riusciva a fare benissimo. Ecco, questa è la grandezza di internet, perché probabilmente Frank Matano ai tempi, come dire, o beccava, aveva il culo, o beccava un, come dire, illuminato come Renzo, che gli lasciava un messaggio in segreteria e capiva subito dal tono della voce, dalle cazzate che diceva. Come successe a Nino Frassica con Renzo. Lui e tanti altri, se aveva, come dire, se questa persona aveva talento e quindi lo chiamava, altrimenti magari poteva girare per le stanze dei dirigenti televisivi per anni, no? Perché spesso poi gli interlocutori sono sordi a queste cose. E invece grazie a internet in un secondo, tra virgolette, facendo gli scherzi, che poi sono gli scherzi telefonici, li faceva già Nanni Loi 45 anni fa, insomma, però grande talento, e quindi Frank è venuto fuori e ha dimostrato di avere capacità di narrazione. E ha accettato l'ingaggio televisivo, però adesso presenta X Factor, comunque fa cinema è bravo. Beh, questo però ha portato in qualche modo un po' di pubblico fresco alla televisione. Sì, ma infatti però io ho visto altri personaggi che sono stati tirati fuori dal mondo di internet e messi in televisione, l'ha fatto la De Filippi per esempio, tipo Francesco Sole, no? Senza fare nomi, che sembrano pesci in un acquario molto grande, pesciolino rosso nell'acquario, perché l'acquarione, che è la televisione, ha delle regole e quelle vanno rispettate. Ecco, ha delle regole che vanno rispettate, Francesco, quindi adesso te la faccio subito la domanda in modo che ci puoi riflettere, perché ascoltiamo ancora Lala Hathaway, però qui con Robert Glasper dal primo Experiment Black Radio One, album di successo che gli ha portato anche il Grammy Award, il brano anche questa un'interpretazione di Lala Hathaway. Prima l'abbiamo ascoltata dal vivo interpretare un brano di Anita Baker, qui un vecchio successo di Sade intitolato Cherish the Day con Robert Glasper. Ma il quesito è: perché non c'è ricambio nella conduzione in televisione? Sono sempre gli stessi a fare i programmi, fanno tutto loro. La ringrazio della domanda. Soundcheck. Il suono della musica. Siete di nuovo collegati con il Groove Master Studio per l'appuntamento del Soundcheck, prova del suono di Radio 24 di questa sera, con nostro ospite Sergio Rubino. Siamo qui con questo formidabile autore televisivo proprio a disquisire sui grandi e piccoli sistemi della TV. E la domanda che ho fatto a Sergio prima di ascoltare Lala Hathaway e quindi l'informazione di Radio 24, grandissima interprete, grande cantante, è perché in TV non c'è un grande ricambio, non c'è una palestra. Abbiamo parlato di internet, i ragazzi seguono internet, da internet forse potrebbero arrivare o essere scoperti in internet i nuovi talenti, magari su YouTube, però in TV, sia sulle reti private che su quelle Rai, non c'è un grande ricambio. Insomma, a fare programmi di varie tipologie ci sono sempre gli stessi. Perché? Te l'avevo detto prima, ti ringrazio della domanda perché non ho risposte. Prego. No, scherzo. No. Azzardo una riflessione. Una riflessione che in effetti il mercato si è sempre più ristretto. O forse è quello che diceva Francesco, bisogna andare sul sicuro con la televisione. Bisogna andare sul sicuro, è vero. Se un programma lo presenta Bonolis, già sai che acchiappi una bella fetta di pubblico. Senza dubbio, però bisognerebbe, come dire, destinare quasi proprio per legge anche agli editori privati, perché basterebbe regolamentare il tutto, una specie di un monte ore dedicato alla sperimentazione, capisci? Alla cantera, no? Che non è internet, perché da internet tu puoi avere delle intuizioni, ma poi cambia il linguaggio in televisione, quindi il linguaggio televisivo rimane con un protocollo che non puoi alterare, perché sennò non arriva a niente sostanzialmente, quindi questo va detto. Quindi non si sperimenta più, una volta si sperimentava di più perché il mercato si è ristretto, quindi il bacino di utenza, adesso se tu pensi che le sei reti generaliste insieme fanno appena il 44-45% di tutta l'offerta, che è pochissimo, no? Quindi un programma nostro è uno dei pochi paesi che continua ad avere delle reti generaliste, ormai sono tutte reti tematiche. Quando è arrivato Sky con quella proposta incredibile, te li puoi anche vedere dopo i programmi o fermare la diretta, quello è fantastico, è cambiato tutto. Sono d'accordo, anche se poi ci sono delle cose che non possono essere commutate, no, nel linguaggio. Cioè sono delle cose che rimangono tali, cioè un programma, anche un varietà piuttosto che un talk, piuttosto che, non lo so, un programma di approfondimento culturale, se lo fai in diretta, per esempio, ha un fascino e ha una forza per chi lo sta facendo in quel momento, per chi poi lo vede da casa, che la registrazione, il programma registrato non avrebbe, insomma, e quindi questo intanto è fondamentale. Poi le reti generaliste, è vero che siamo rimasti l'ultimo paese a fare, diciamo, ad avere una TV generalista, ma è anche vero, perché lo dico, che ci sono un sacco di reti tematiche, sono una palla infinita, fatte sì, anche male, malissimo. Io ho visto reti fatte, canali interi fatti con una telecamera, e questo io non va bene, perché comunque non è che tutti devono fare la televisione, cioè non è obbligatorio che tutti la facciano. Però oggi uno standard di qualità comunque ci vuole. È fondamentale. Qualità nel video, audio, no? Assolutamente. Questo è se fondamentale. Se no non sei competitivo. Questo è fondamentale. Io vedo che X Factor è un programma comunque tecnicamente fatto benissimo. Da Dio. Complimenti. Insomma, no? Quindi... Allora, visto che parliamo di X Factor e ci arriviamo fra pochissimo, torniamo alla musica. Ti faccio sentire, secondo me, un personaggio che ormai fa musica da tanto tempo, cubano, che ha scritto questo brano che, secondo me, potrebbe funzionare anche in televisione nel nostro paese, vero? Sì, praticamente Raul Paz ha rivoluzionato la musica cubana inserendo comunque degli elementi di pop, di groove, anche di R&B. È soprannominato il cubano francese perché ha studiato poi in Francia, ha studiato conduzione e vari altri strumenti musicali. Con questo disco ha venduto più di 60.000 copie solo a Cuba, quindi veramente fortissimo. E a Cuba, ci sono i cubani. Mulata, Raul Paz al soundcheck di Radio 24. Io sono un pedazo de sueño y le han regalado temblores de adentro. Por el camino canto un bolero y el que pensaba cantarle primero. Entre paredes de un cuarto viejo, perdidos por allá por el centro, mordió su corazón y le dijo: la vida es un juego, es un sueño. Soundcheck, il suono della musica. Don't go my body, baby, don't go my body. Don't go my body, baby, don't go my body. Don't go my body, baby, don't go my body. Don't go my body. Do it, baby. Don't go my body. Raul Paz lo considerano a Cuba, anzi il nomignolo che gli hanno affibbiato è il cubano francese. E invece questa era Daimé Arosena con Don't Unplug My Body, che oggi viene considerata una cubana inglese, visto che Giles Peterson, il famoso producer, conduttore di programmi radiofonici importanti lì in Inghilterra per la BBC, l'ha lanciata in tutto il mondo, convocandola nella sua etichetta discografica. Siete in contatto con il Soundcheck, Groove Master Studio, nostro ospite, lo ripeto, Sergio Rubino, autore di programmi televisivi importanti da 20 anni, è impegnato in questi giorni con una nuova produzione guidata da Paolo Bonolis. Quali sono le caratteristiche che deve avere un bravo conduttore televisivo? Guarda, un bravo conduttore televisivo. Tu hai lavorato con i più forti, dai. Io ho lavorato con i più forti e devo dire che lavoro attualmente, insomma, sono 12 anni che condivido la sua avventura professionale e anche adesso anche umana. Paolo è il più bravo di tutti. E quello è un talento. Io non ho mai visto. Poteva dire secondo te il contrario, tromba? No, solo questo. Beh, no, assolutamente. Ma no, ma è una scelta. No, questo è giusto che tu dica questo, però ti dico. No, anche perché tu hai lavorato anche con Pippo Baudo. Quindi dicendo questo, mi stai dicendo che Paolo Bonolis è più bravo di Pippo Baudo. Per alcuni aspetti, sì. sono anche generazioni dimensioni diverse. Scusami, no, è più forte di me, Sergio. Mi devi rompere le palle. Sì, lo sai, dai. Sono caratteristiche, hanno caratteristiche diverse. Però hai lavorato anche con me, quindi Paolo Bonolis è più bravo anche di me. Vabbè, anche lì sono caratteristiche diverse, diciamo, per avere, diciamo, che la caratteristica fondamentale, la qualità migliore di un bravo conduttore è avere orecchio. Sembra una stupidaggine, ma risiede tutto lì, avere il groove e avere il timing. Quello o ce l'hai o non ce l'hai, tra l'altro, cioè poi lo puoi affinare, ci puoi lavorare sopra, però ecco, la capacità del conduttore, perché il conduttore nel caso di Paolo, che è un po' come il grande regista di una squadra di calcio di altissimo livello, deve avere praticamente la capacità di controllare che tutto giri attorno a lui perfettamente, però poi avere l'occhio perché c'è il compagno che si è sganciato e fare il lancio in profondità, oppure coprire la difesa, o quando è necessario fare melina, oppure attaccare. Ecco, ho fatto un paragone calcistico perché è quello che deve fare un conduttore. Intanto non bearsi di se stesso, ascoltare in genere il mood del programma. No? Quindi che può essere il pubblico, l'atmosfera, l'ospite, le vibrazioni che questo dà, e quello, beh, io non voglio, sinceramente sono fatti loro, io non lo farei mai, però è quello, l'orecchio è la più grande, che sembra assurdo per la televisione avere solo orecchio, invece ci vuole orecchio, lo diceva perché, già Iannacci, perché abbiamo in Italia il gusto per l'orrido guardando la televisione, cioè i momenti quelli bassi della televisione, i litigi, le parolacce, a me mi fa schifo. Le chiappe funzionano però. Devo esposizioni dire che, di brandelli umani, di brandelli di carne, dipende carne. Poi sempre dal modo in cui lo fai. Comunque c'è un'inversione di tendenza negli ultimi periodi, per esempio il talk show politico gridato, a parte il rotti coglioni, cioè, diciamo, beh, l'hai detto. L'ho detto, ah, ok. E non ha più questo tipo di ritorno che aveva fino a qualche anno fa, cioè il pubblico comincia a stancarsi di questo, anzi si è già stancato. Beh, hanno stancato anche i politici molto, ma in televisione hanno stancato, ho rotto appena adesso la stampante, no. Da mo' che hanno stampato, sta stancato. Sì. Quindi la parolaccia, il gusto dell'offesa, dell'invettiva gratuita non sono più, diciamo, di moda, no? Meno male. E per quanto riguarda la carne è debole, questo si sa, da questo punto di vista la carne è debole. Siamo italiani, siamo è italiani, più forte di siamo noi. Italiani. Alicia Olatuja, conosci questa ragazza? No, però me l'hai fatta scoprire tu, ho visto che ha suonato anche con nomi importantissimi del jazz. Eccola qui con Christian McBride al contrabbasso, il brano si intitola Serrado, nuovo album, anzi recente perché è stato pubblicato un anno fa negli Stati Uniti, si intitola Timeless, per questo talento del quale vi parleremo comunque nelle prossime puntate del Soundcheck. Se o senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou que tempero o meu amor. Esse meio em mim, essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Sound check, il suono della musica. Don't stop till you get enough. Altro talento inglese, si chiama Anthony Strong, lo abbiamo conosciuto in Italia perché ha già fatto i suoi concerti, nuovo album per lui con il quale si diverte a interpretare in chiave swing e jazz anche dei successi pop come questo scritto da Michael Jackson, famosissimo, intitolato Don't Stop Till You Get Enough. Anthony Strong al soundcheck in questa puntata dedicata alla televisione per la presenza del nostro amico Sergio Rubino, autore di fama nazionale. Un giorno mi piacerebbe presentare come autore di fama internazionale, perché credo che l'aspirazione massima per un autore televisivo sia diventare un po' come Simon Cowell, cioè scrivere, tirare giù un format, lui ne ha scritti diversi, sempre legato ai talent show e alla musica, poi girare il mondo e raccogliere tanti soldi. Io credo che questa sia una legittima aspirazione. Sì, però è difficile. No. Se fosse facile, no, non sono ancora stati creati dei format italiani che sono stati esportati all'estero, non lo so. Ma lo guarda, qualcosa è stato quello fatto. Che facciamo noi tutti i giorni sul canale 5 con Bonolis, che è Avanti un altro, è un format venduto, che è roba nostra, venduto in 23-24 paesi del mondo. Cazzo. Ciao Darwin, che è un altro di quei programmi che insomma legato alla storia di Paolo, di cui ho fatto 3 edizioni e che probabilmente vedrà la quarta per me nel 2016, è un altro format venduto un po' in tutto il mondo, addirittura in Cina. Stavamo parlando della musica con X Factor, infatti io volevo farti una domanda, cioè la musica in televisione sembra quasi ingombrante, cioè quasi fuori posto, c'è un problema di contenitore, cioè la televisione non è adatta a un certo tipo di musica, oppure è proprio una questione anche di come vengono impostati i programmi, cioè che i programmi non vengono scritti in base alla musica che ci sta dentro, diciamo. Guarda, no, io non credo che sia così, perché sostanzialmente, anzi, devo dire che le maggiori forze numeriche di consenso, no, dei palinsesti di questi anni vengono da 3 programmi che hanno una matrice musicale assoluta, come X Factor, The Voice e Amici. E poi ci sarà sempre chi dirà, ma però la qualità della musica... Guarda, ti dico una cosa anche un po' provocatoria, ci pensavo venendo stamattina... qui da noi. Sì, ci sono stato per tutto il giorno, sì. E quindi ho avuto modo di riflettere. E in realtà una volta era difficile trovare collocazione, perché comunque dipendevi dall'intuizione del discografico, che per moltissimi casi ha fatto anche delle cappellate enormi, cioè ci sono stati dischi importantissimi che sono rimasti nei cassetti per anni, no? Talenti che non si sono espressi, poi è chiaro che chi era proprio strabordante non poteva non venire fuori. Almeno il talent da questo punto di vista dà l'opportunità di avere subito un contatto diretto con il pubblico che ti vota, che comunque poi ti segue sui social, ti twitta i commenti, insomma hai subito un audience. Poi ecco, dovrebbe essere compito di chi fa la televisione, di chi poi sta intorno a questi talenti, trovare la strada per come dire, creargli poi un indotto che è il live, che è la formazione vera e propria, cioè quindi l'esperienza, no? Però per dirti, la band che ha vinto Amici quest'anno, The Colors, sono forti. Io ascolto altra musica totalmente altra, un po' ascolto. Sì, se non fosse poi però che se si vanno ad analizzare, Francesco, gli ascolti al minuto di questi programmi fanno più ascolto le disquisizioni dei giudici che le performance musicali dei giovani artisti. Da Anthony Strong, Didi Bridgewater con Dr. John e Big Chief. No, è così, Rubino, no, non credere. Sì, sì, sì, però insomma si può discutere ancora. Discutiamo. Soundcheck, il suono della musica. Ferguson, get happy al soundcheck di Radio 24. Chi è Rebecca Ferguson? Tromba. Visto che stavamo parlando di X Factor, lei viene da X Factor Gran Bretagna ed è uno dei casi appunto di talento che è esploso completamente, perché addirittura è riuscita a lavorare con gli stessi musicisti con cui lavorava Frank Sinatra, quindi ha avuto comunque un successo di pubblico veramente importante, oltre a un successo professionale vero e proprio. Sì, qui Rebecca Ferguson celebra Billie Holiday con questo album intitolato Lady Sings the Blues per la RCA. Allora, il soundcheck sta per terminare, quindi sono molto contento di aver avuto il nostro ospite Sergio Rubino. Sergio, devi tornare assolutamente. Adesso inizia la stagione televisiva, partono programmi consolidati, ma anche delle nuove produzioni. Staremo a vedere che cosa succederà. La radio l'ascolti, ti piace? Ti piace la radio italiana? Io ascolto solo radio sostanzialmente. Televisione quale radio ascolti? Guarda, lo puoi dire. Lo devo dire? Sì, lo puoi dire. Devo fare nomi, cognomi? Puoi dirlo, sei un autore televisivo. Sì, io ascolto la radio che fa la musica vicina al mio gusto, che devo dire, Radio Capital mi piace molto, mi piace molto Radio Onda Rossa, che, perché rimane sempre un vecchio corazon rivoluzionario, per cui a me mi piace, quindi da questo punto di vista. Radio Popolare, Antenna 1. Che fa Antenna 1 fa una serie di selezione musicale. Selezione musicale che fa quei mistacchioni insomma da intorto poi. Sì. Però ballad, queste cose qua. E Isoradio quando viaggio. Cazzo, Radio 24. Aspetta, Radio 24 per l'informazione. E poi una volta a settimana il sabato per aggiornarmi sulla qualità. Però, siccome io sono amico di Gegè, conosco quest'uomo. Se io sono amico di Gegè, io lo chiamo e dico: senti, che cos'è uscito di forte? E quel me lo dice, sì, io me lo sento. Gliela faccio al telefono, la radio. Capito? Sergio Rubino. Vabbè, Sergio, senti, salutaci Paolo, abbraccialo da parte nostra, auguri, complimenti per tutta la tua attività e naturalmente speriamo di rivederci prestissimo. No, dobbiamo che rivederci. Devo fare per rivederti? Ti devo invitare in radio un'altra volta. E poi a mangiare. No, perché lui a me in televisione non mi invita mai, eppure ha fatto dei programmi musicali. L'ultima volta che gliel'ho chiesto, gli ho detto: Sergio, ma come mai fai programmi musicali? Perché a me non mi inviti mai? Non te lo dico perché so che tu non verresti mai. Scusa. Questo mi rispose. Mi disse, conosco l'etica di quest'uomo. Ecco, sì, è vero. No, hai ragione però. Hai ragione, no, è proprio così. Senti Sergio, ti abbraccio forte. Vuoi salutare qualcuno? Non lo so, parenti, amici. Sei sempre un attore televisivo, quindi di portare in radio alcune regole, perché no? Grazie, io voglio solo salutare. Mi piacerebbe che tu ti mettessi a piangere adesso, no? Perché adesso quello funziona in TV. Adesso non piango perché comunque ho tenuto, poi vederti è sempre talmente. Io con quest'uomo lo conosco benissimo, ci vogliamo molto bene, quindi tromba, tu sei molto fortunato a lavorare con un uomo molto intelligente come Gegè Telesforo. No, saluto mia figlia Elettra, mio figlio Orlando, Luca e Barbara. Ecco, e qui gli ascolti anche su Radio 24 sono saliti. Grazie a Sergio Rubino. Tromba, noi ci rivediamo domani sera, 19:15. Sì, domani alle 19:15 ci sarà anche un ospite importante. Sì, collegato con noi via Skype, Sacial Vasandani, per presentare anche il suo concerto il 30 di settembre al Blue Note, quindi fra qualche giorno, da non perdere. Eccolo, album nuovissimo da un altro veterano che arriva da New Orleans, John Cleary con Getcha Go Go Juice. Gotta stoop so low. I wouldn't do that. I wouldn't do that. Me.